I lavori di domani di Anna Marino. Oggi parliamo di un acronimo. L'acronimo STEM deriva dall'inglese Science, Technology, Engineering and Math, che si riferisce appunto alle discipline accademiche della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. Perché ne parliamo? Perché è una metodologia didattica, insegna a unire tutte queste materie e a renderle connesse. Non solo, serve anche addirittura per combattere, come dire, la disparità di genere sul lavoro, la lotta e la difesa, insomma, per la parità anche delle etnie. Serve a tantissimi scopi e proprio per questo serve anche a ingenerare più crescita nei lavori in questi campi. E in America, per esempio, questo tipo di lavori, di professioni, di figure che integrano queste discipline è molto richiesto, ma negli anni non sono riusciti a farle crescere. E in Italia noi lo chiediamo alla Rabotta, alla STEM Advocate. Il paese Italia non è messo meglio di quello americano e quindi sappiamo che c'è un mismatch, quindi i giovani non trovano lavoro ma le imprese non trovano le competenze corrette, quindi cerchiamo di portarle a conoscenza di più giovani possibili. Perché? Perché ormai i lavori sono sempre più in queste materie, il cambiamento, la digitalizzazione, l'industria 4.0 ha fatto sì che anche imprese in settori completamente diversi e non specificatamente IT ormai hanno bisogno di figure di questo tipo, quindi STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics. Troviamo anche il mondo dell'artificial intelligence, ormai data science, e noi cerchiamo di portare avanti dei progetti che possano mettere a conoscenza i giovani di quello che sta succedendo al paese. Non solo, bisogna anche spiegare alle imprese che cosa sono questi nuovi lavori, perché è quello che facciamo anche noi ogni domenica, andiamo in onda e cerchiamo di far capire quello che appunto è necessario per fare una trasformazione digitale. Di quali figure più importanti, insomma, in questo campo hanno bisogno le imprese, per esempio? Mi viene da pensare agli ingegneri per l'industria 4.0, quindi i macchinari che vengono cambiati sono sempre più digitali. Il fatto di avere artificial intelligence, tante specificità sui macchinari piuttosto che data science, quindi cercare di rilevare tutti i dati possibili, poi c'è qualcuno che deve riuscire a analizzarli, a renderli utili all'azienda. Ecco, questo crescere. è importante perché fondamentalmente tutti questi dati, queste montagne di dati da cui siamo colpiti già anche noi con i nostri telefonini, ma figuriamoci le imprese acquistando nuovi macchinari che parlano attraverso software, attraverso dati e programmazione, figuriamoci appunto le imprese quanto hanno bisogno di persone che decifrino, quindi il fattore umano conta e soprattutto è importante anche far capire non solo dal lato imprese quanto sono necessari questi lavori, ma anche lato giovani e giovani donne quali sono appunto i percorsi di formazione per arrivare qui dove il lavoro è richiesto e non è solo di domani ma anche di oggi. Esatto, l'Unione Europea dice che entro il 2025 saranno richiesti 7 milioni di posti di lavoro proprio nelle STEM. Se avessimo lo stesso numero di donne e uomini all'interno di queste discipline, il PIL annuo aumenterebbe di 9 miliardi di euro. Questi sono dati importanti che ci fanno riflettere e ci fanno forse rendere conto di quanto sia importante e di che possibilità ci sono all'interno di queste materie. Come consigli sulla formazione, da quali competenze base bisogna partire e come ci si forma, cioè quali sono i percorsi formativi più importanti per arrivare qui? Allora, sappiamo che il World Economic Forum dice che il 65% dei bambini alle elementari oggi farà un lavoro che ancora non esiste, quindi penso che la competenza più importante è quella di saper cambiare, essere curioso e migliorarsi sempre. Da dove si può partire? Quali sono le competenze base che possono essere diciamo raggiunte fin dall'inizio per poi arrivare a svolgere una di queste professioni STEM? Sicuramente appunto dal punto di vista scolastico si può passare tramite gli ITS, andare verso le università, intraprendere lauree STEM. Quello che bisogna aggiungere è sempre una parte pratica, trovo, che la parte digitale va capita, va utilizzata e mettere assieme la pratica con la teoria è sempre il modo migliore per apprendere e essere pronti per il mercato del lavoro. Ci sono già degli strumenti che possono essere utilizzati per mettere in pratica magari nelle imprese queste competenze che si acquisiscono man mano? Beh, mi viene in mente l'Erasmus Plus, che è un progetto europeo dove i ragazzi, si chiama Digital Opportunity Traineeship, dove i ragazzi possono andare a fare un'esperienza all'estero oppure venire in Italia e intraprendere uno stage all'interno delle aziende proprio su queste materie. E in Italia, per esempio, strumenti come l'alternanza scuola-lavoro possono servire a... Assolutamente, sono una fan dell'alternanza scuola-lavoro e trovo sia il primo approccio a un ambiente lavorativo per i ragazzi, dove possono capire sì cosa gli piace, ma anche soprattutto quello che non vogliono fare. Mettere le mani in pasta, come si suol dire, capire come ci si relaziona all'interno di un posto lavorativo e come si utilizza la tecnologia ha un valore aggiunto rispetto a quello che fanno come didattica a scuola teorica. E questo si può capire anche durante le superiori, prima di arrivare appunto alla laurea, se si vuole arrivare alla laurea, comunque già raggiungere una consapevolezza. Magari le lauree sono più predisposte alla parte pratica, spingerei a fare più pratica possibile, a inserirsi nel mondo del lavoro il prima possibile, anche solo come approccio, perché ti fa mettere in pratica quello che hai imparato e ti fa capire che importanza ha quello che studi. Si può lavorare anche con la di stimiamoci, con un percorso più umanistico. Insomma, ci vogliono entrambi i fattori. Ecco, da questo punto di vista, come può stimiamoci aiutare una giovane ragazza, insomma, o come dire, un giovane che vuole avvicinarsi un po' a questi nuovi lavori? All'interno del sito di Stimiamoci, che è all'interno del sito di Assolombarda, da dove il progetto nasce, ci sono tante parti. Una è quella di ascoltare role model al femminile che abbiano portato avanti o nella carriera o da un punto di vista accademico queste discipline. Questo perché? Perché ci sono tanti stereotipi di genere all'interno di queste discipline. I maschi vanno verso le materie scientifiche e le donne sono portate o influenzate verso delle materie umanistiche. Sappiamo che sempre di più sono necessarie queste materie scientifiche e quindi dobbiamo cercare di togliere un po' gli stereotipi, i bias inconsapevoli, non solo da un punto di vista etico, non solo perché serve al paese, ma serve anche alle imprese, perché avere dei gruppi e dei team diverse, come si suol dire, quindi con generi diversi, porta anche a un'efficienza migliore. Questo lo dicono i dati, non solo la robotta. Certamente. Ecco, voi che cosa fate appunto? Quali eventi seguite? Come fate a promuovere insomma queste discipline STEM e incentivare questi nuovi lavori? Sono vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria a livello nazionale, mi occupo di politiche di genere, all'interno del quale portiamo avanti un progetto che si chiama Stimiamoci, proprio sulle STEM. Noi come giovani imprenditori, grazie alla capillarità di Confindustria, riusciamo ad arrivare nelle varie tappe del Salone dello Studente, con cui abbiamo una collaborazione. Lì portiamo delle ragazze STEM che abbiano o intrapreso la carriera didattica o la carriera, diciamo, professionale all'interno di queste facoltà, e portiamo un punto di vista diverso per far capire che si può fare ed ha dei vantaggi. Come advocate ovviamente hai anche una mission, e la mission è anche di incentivare questo lavoro. Questi tipi di lavori hanno anche un futuro, cioè sono proprio lavori di domani, oltre che molto richiesti oggi. Sicuramente sarà sempre di più, perché le industrie si stanno robotizzando sempre di più, digitalizzando sempre di più, e è impensabile che si torni indietro, quindi si andrà sempre più avanti, e avere anche nell'artificial intelligence un fattore femminile, quando la metà dei consumatori sono al femminile, è importante per le aziende, perché bisogna creare dei prodotti che sempre di più rispecchino le esigenze dei consumatori. E allora un appello insomma alle ragazze a non dedicarsi solo alle discipline umanistiche, così? A informarsi. Le attitudini non si possono cambiare sicuramente, ma una scelta informata credo sia quello che è necessario ad oggi.